campo, comunque da tre quarti, un sinistro al volo impressionante. Tutti convocati di Giovanni Capuano. È il giorno di Cassano che questa sera ore 18:30 si presenta al Parma e io mi aspetto scintille, considerato come è andata le altre prime volte del talento barese. Però oggi è anche il giorno dell'accordo vicino tra il Milan e Keisuke Honda, il giocatore più famoso del Giappone in uno dei club più noti al mondo. Quindi non solo calcio ma anche una questione di business, scrivono oggi i giornali ricordando i precedenti di Kazu Miura, per chi se lo ricorda, a metà anni 90, il primo giapponese in Italia al Genoa, oppure di Nakata che vinse anche uno scudetto con la Roma. Sarà davvero così? Sarà anche business e non soltanto calcio? 800 24 00 24 per dirci in diretta che cosa ne pensate di Honda, di Cassano, di quello che volete. 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scriverci anche su Twitter @ tutti convocati. Sarà davvero così? Business e non solo calcio? Buon pomeriggio a Maurizio Morana, agente FIFA che si occupa e molto di calcio giapponese. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio Morana, che è stato, per chi non lo sapesse, per 7 anni l'agente di Hidetoshi Nakata, che è uno dei primi giapponesi ad essere sbarcato in Italia. In queste ore si parla e molto del possibile arrivo di Keisuke Honda al Milan e su qualche giornale oggi è stato scritto che si tratterebbe di un'operazione non soltanto legata alle qualità tecniche del giocatore, ma un'operazione che porterebbe anche un indotto, un business al Milan, con un'equazione che spesso è stata fatta a metà degli anni 90. È un'equazione, Morana, che è ancora valida, cioè quella che portare in Italia un giocatore giapponese è un affare a prescindere che sia un buon giocatore o meno? Penso che questa equazione di fatto non sia mai stata vera, nel senso che una squadra decida di prendere un giocatore straniero, extracomunitario, nella fattispecie giapponese, per questioni anche legate ad aspetti commerciali, penso sia una cosa del tutto fuori luogo, nel senso che basta pensare solamente alle difficoltà che ci sono oggi nel trattare i giocatori extracomunitari, che un club pensi di tesserare un giocatore straniero, extracomunitario, per vendere qualche maglietta in più, sarebbe un discorso non più attuale, sta dicendo. Ma no, ma una cosa fuori luogo, cioè in Italia oggi un club di Serie A può tesserare solamente due extracomunitari, che uno dei due posti da extracomunitario venga occupato per motivi commerciali, è una cosa che non è giusto vendere al tifoso, al consumatore come vera, perché di fatto non è così. Morana, la leggenda racconta che però la permanenza di Nakata alla Roma portò un incremento importante del fatturato, con decine di migliaia di magliette vendute, addirittura una divisione del club dedicata alla gestione del marketing e del merchandising legata a Nakata. Leggenda o 10 anni fa, 15 anni fa c'era un fondo di verità? Guardi, il discorso di Nakata fu un discorso del tutto anomalo su quello che è stato poi il panorama legato ai giocatori giapponesi, e direi che forse la squadra che più riuscì a fare qualcosa dal punto di vista commerciale fu forse il Perugia. Sì, ebbe l'intuizione Gaucci di portare in Italia quello che era tra l'altro anche un ottimo giocatore. Ma c'era una situazione particolare, c'era una situazione dove lo sponsor tecnico era di fatto di proprietà della famiglia Gaucci, e di conseguenza il merchandising era un importo diretto. Cioè, quando si va su questi discorsi bisogna sempre fare un po' di attenzione, perché poi di fatto, anche quando si parla di merchandising, i club di fatto hanno una royalty sul venduto, e quindi voglio dire, prima di mettere insieme dei numeri importanti voglio dire, bisognerebbe poi fare delle quantità incredibili. Sì, bisogna fare numeri superiori alle 80.000 magliette, ad esempio, che vengono accreditate, vendute dall'Inter con il nome di Nagatomo nelle ultime due stagioni, un dato che è stato pubblicato oggi dai giornali. Morana, prego. Fossero anche un milione di magliette con una royalty che, va bene, varia da sponsor a sponsor, per voglio dire, una royalty che sicuramente è irrisoria di fronte a quello che poi di fatto viene poi detto. Cioè, direi che da quel punto di vista lì bisognerebbe rivedere un pochettino quello che viene comunicato. Bisogna ridimensionare forse i numeri. Sicuramente. Il mercato giapponese resta però interessante per il calcio italiano? Lei lo conosce bene, lo pratica, lavora molto con il Giappone, resta comunque una frontiera che possiamo esplorare ancora con dei vantaggi da ottenere? Io penso che se dei vantaggi possono essere ottenuti, questo poi dipende dall'abilità del club, dipende dall'abilità delle persone che lavorano nel marketing, nel senso che io vedo, non solo, vorrei allargare il discorso non solo su una base italiana ma su una base europea, ci sono dei club che hanno saputo massimizzare la presenza di certi giocatori, ma non solo giapponesi. Io penso che a livello proprio globale, internazionale, i giocatori che muovono o possono muovere degli introiti commerciali si contano sulle punte delle dita e ove questo avvenga dipende molto, ripeto, dalla abilità dell'ufficio commerciale di quel club. Quindi per chiudere, Morana, quello che viene scritto oggi su Repubblica, cioè che Honda porterebbe un indotto per il marketing da 6-7 milioni di euro all'anno al Milan, è una stima ottimistica se il Milan eventualmente saprà sfruttare al meglio l'impatto di portarsi il giocatore più conosciuto del Giappone in uno dei club più famosi del mondo, ma non è qualcosa che avviene semplicemente perché c'è questo matrimonio, se questo matrimonio ci sarà. Guardi, io non me la sento di commentare nella fattispecie il caso di Honda del Milan. Sicuramente nel caso di Honda del Milan parliamo di un club che è molto noto e ha molti, molti tifosi anche in Giappone, e di un giocatore che è altrettanto famoso. Particolare, però che questa operazione sia dettata da fatti commerciali mi sembrerebbe molto strano, e sarebbe secondo me riduttivo e anche da un certo punto di vista non rispettoso nei riguardi dell'area tecnica del Milan, che è molto competente e che se sta pensando di prendere questo tipo di giocatori lo fa essenzialmente per questioni tecniche. Perché poi, è individuato in lui il trequartista, giusto? Quindi se vedremo... Perlomeno questo è quello che si dice. Se vedremo la conclusione di questo affare, sarà squisitamente per una scelta tecnica. Io non mi sento di ipotizzare altri motivi dietro questo. Se poi, ripeto, al Milan saranno così abili, come probabilmente lo sono, a massimizzare questa cosa anche dal punto di vista commerciale, questo è un automatico vantaggio. Meglio un trequartista che viene dal Giappone piuttosto che un trequartista che viene dall'Emilia Romagna, per fare una battuta, perché comunque esiste un mercato, però è slegato dalla scelta. Sì, perché se il centrocampista viene dall'Emilia Romagna mi aiuta a conseguire risultati calcistici migliori di quello che avviene dal Giappone, sarebbe un suicidio fare il contrario, e non penso che in un club come Milan, come in qualsiasi club italiano, oggi ci sia nessun dirigente pronto a fare scommesse azzardate. Grazie Maurizio Morana. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Maurizio Morana, noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, poi parleremo anche di Cassano, perché oggi è il giorno della presentazione di Cassano al Parma, e non so voi, ma io sono curioso di sentire cosa avrà da dire, perché, e poi lo sentiremo, nelle sue precedenti esperienze, nelle sue prime volte al Milan, alla Roma e all'Inter, c'è stato da divertirsi. Adesso il traffico. Ho saputo che sei molto amico di Nagatomo, è vero? Sì, perché non capiamo niente ogni volta che parliamo. Ma lui parla? Sì, parla un po'. Cioè. Lui? È da 3 anni in Italia? Quando ti parla tu ridi perché ti viene da ridere, però non capisci niente. Però bravo, molto bravo. Ma lui non si offende, no? Ma non si offende, no. Ma tu gli puoi dire qualsiasi cosa, non capisci. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. L'avete sentito Cassano parlare di Nagatomo. 18:30 le sue prime parole da giocatore del Parma, che saranno anche le ultime da giocatore dell'Inter. Oggi l'Inter lo ha salutato sul suo sito. È stato un onore vederlo indossare la maglia nerazzurra, ha fatto scrivere il presidente Moratti. Non lo so, le altre prime volte di Cassano non sono mai state banali. Chissà che cosa inventa questa sera. 800 24 00 24 Maurizio dalla provincia di Caltanissetta, buon pomeriggio. Sì, ciao, buon pomeriggio. Prego. Mi senti? Perché la linea è un po' disturbata. Prego, avanti. Pronto? Sì, prego Maurizio. No, c'è qualche problema di linea, allora vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Maurizio dalla provincia di Caltanissetta. Intanto due notizie di mercato, perché proprio in questi minuti è a un passo la chiusura dell'affare Belfodil, l'affare che porterà Belfodil all'Inter. Già nel pomeriggio dovrebbero arrivare le firme, anche se c'è ancora qualche dettaglio da sistemare. Affare che si chiude anche se Silvestre non accetta la destinazione del Parma. E poi viene segnalato in Inghilterra Walter Sabatini invece per la Roma, ufficialmente incontra il Manchester City per cedere Osvaldo in un'operazione da una ventina di milioni di euro. Si dice però che Sabatini sia reduce dall'Olanda, dove è andato a trattare Strootman del PSV, e quindi potrebbe essere un'altra operazione interessante per la Roma. Roberto dalla provincia di Arezzo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera. Prego. Ascolta, volevo sapere se Gomez ce la può fare la Fiorentina a prenderlo. Sì, ce la può fare, a patto che risolva in fretta la questione di Jovetic, che ho l'impressione stia diventando ogni giorno che passa più complicata per la Fiorentina, perché se viene a mancare l'interesse della Juventus diventa difficile, credo, per i Della Valle riuscire ad ottenere quei 30 milioni di euro che sono questo patto, questa clausola, o anche poco meno, e senza quei soldi non ci sono i soldi da reinvestire su Gomez, che sta aspettando la Fiorentina, ma è un giocatore di livello internazionale. Io non credo che aspetterà la Fiorentina in eterno. Prima o poi, se manca la chiusura di questo affare, potrebbe anche guardarsi intorno. A proposito dei giocatori giapponesi, scrive Adelin su Twitter, chiocciola tutti convocati, non va sottovalutato l'aspetto relativo al turismo, che è sempre più importante nel bilancio. È vero, però ci spiegava, secondo me ha ragione, Maurizio Morana, agente FIFA che tratta molto spesso le questioni che riguardano i giocatori giapponesi. Non si fa un investimento su un giocatore che deve essere importante come Honda per il Milan soltanto per portare qualche turista in più a Milano o per vendere qualche maglietta in più. Discorsi che andavano bene forse a metà degli anni 90. Oggi è il giorno di Cassano. Io sono curioso di sentire che cosa dirà, perché le ultime sue prime volte sono andate così. Se penso a quello che dico, sai che cosa viene fuori? Ho scelto la Sampdoria perché io penso che questa sia la città giusta. Infatti stamattina anche la gente mi ha accolto in una maniera incredibile. Io ho bisogno di affetto, appena ricevo affetto do il 110%. Penso e sono sicuro che sarà la mia ultima tappa qui al Milan, perché sono arrivata alla squadra più titolata del mondo, sono arrivata al top. Più del Milan non c'è nulla, c'è poi il cielo e basta. L'ultima occasione. Io ho detto quel giorno, se sbaglio sono da rinchiudere al manicomio. Siccome non ho sbagliato io, ma ha sbagliato qualcun altro lì, non dico né i giocatori e neanche l'allenatore, qualcun altro che sta sopra l'allenatore, che non mi va neanche di fare il nome, che prometteva, faceva tanto fumo e poco arrosto, a me non mi va bene. Quando uno mi prende in giro, a me non mi va bene. Siccome quell'altro faceva il furbo, a me non andava bene e io devo andare via. Oh, Cassano si è fatto inserire nel contratto con il Parma il bonus in caso di raggiungimento della convocazione per il mondiale dell'anno prossimo in Brasile. Cassano che è da un anno fuori dal giro della nazionale, però penso che se c'è una motivazione che lo può spingere a fare una stagione di altissimo livello, può essere quella di sperare di andare al mondiale. E quindi da questo punto di vista l'operazione del Parma credo sia un'operazione intelligente. Ne ha parlato il nostro Dario Ricci insieme a Eugenio Fascetti, che Cassano lo conosce benissimo e che sulle scelte di Prandelli ha un'idea abbastanza precisa. Sentiamolo. Ma io lo vedo bene anche per il Parma, perché Antonio dovrebbe, cioè, se ha, come si può dire, carattere, credo che non rimanchi, e dovrà fare un campionato bellissimo, perché il prossimo anno ci sono i mondiali e non fare i mondiali un giocatore così sarebbe un peccato, perché l'Italia potrebbe avere un trio d'attacco fantastico. Qui poi entra in ballo la verità, se è Prandelli che l'ha per adesso messo da parte o è il gruppo che l'ha messo da parte. Bisognerebbe essere chiari a questo punto, perché girare sempre intorno, poi far filtrare con frasi, mezze frasi, insomma, non mi sembra una cosa corretta. Io sono convinto che farà un grosso campionato quest'anno. Va a Parma, Fant'Antonio dice addio all'Inter, ancora una volta. Ha fatto bene, perché lì se c'era Cassano quest'anno l'Inter poteva anche retrocedere. Se c'è stato qualche partita, qualche sprazzo bello, è stato grazie a Cassano, a Melito e a qualcun altro. Ecco, per il resto è un notte fonda proprio. Però è un Cassano che fa fatica a realizzarsi nelle big. Ma non mi sembra mica tanto che quest'anno abbia fatto un brutto campionato. Quello che doveva fare ha preso anche dei premi, non so se ho letto bene o ho letto male. Certamente è un carattere un po' particolare. Comunque i giocatori di quello tipo lì o li accetti e ogni tanto fai anche fai finta di niente, oppure non le prendi. Però anche un allenatore che deve gestire nelle grandi squadre, ne deve gestire parecchi di Cassano, perché credo che tutti gli altri siano angeli. Donadoni quindi può essere l'uomo giusto per questa gestione. Ma Donadoni all'Europei riuscì a tenerlo a bada, non so se l'uomo ha dato, ma quest'anno deve essere lui a cercare di non andare in rottura con qualcuno, perché è troppo importante dimostrare che potrebbe essere un giocatore da campione del mondo. C'ha questo obiettivo e credo che è l'ultima chance per andare ai mondiali, poi anche per lui si fa tardi, sta solo a lui andarci o non andarci, ammesso che sia solo una questione tecnica, perché se c'è altri motivi mi piacerebbe saperli. Lei comunque un euro su Fant'Antonio ai mondiali ce lo scommette? Ma io sono convinto, se poi non ci va per altri motivi, questo sono fatti, non sono fatti miei. Io sono convinto che se Antonio gioca come sarà, penso che un duo Balotelli che stanno, penso che ce l'abbiano un po', Scelti ha detto che è convinto che Cassano riuscirà ad agguantare la convocazione mondiale per l'anno prossimo in Brasile. Io sono un po' meno convinto, perché mi sembra che le scelte di Prandelli siano abbastanza delineate. Non so cosa ne pensate voi, 800 24 00 24, per le vostre telefonate in diretta su Twitter, @ tutti convocati. Cassano dirà sicuramente che è sempre stato tifosissimo del Parma fin da piccolo, ma quando crescerà, però non lo fa solo Cassano, lo dicono tutti. La collezione di poster di Ibrahimovic, un poster e una maglietta per ognuna delle squadre che ha passato, è leggenda. Andrea D'Ancona, 800 24 00 24, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Io, siccome ne ho perse un po' le tracce, volevo sapere che fine ha fatto Zarate, perché secondo me sarebbe un giocatore per il gioco che vorrebbe fare Conte, che nel primo dribbling, secondo me, è uno tra i più forti che c'è, sicuramente in Italia, se non nel mondo, perché il primo uomo lo salta sempre, poi lui si intestardisce a voler saltare il secondo, il terzo e il quarto, però saltando il primo uomo e crossando, secondo me, sarebbe un giocatore forse numero uno. Io credo che Zarate sia un giocatore che cercherà fortuna lontano dall'Italia. Si era parlato di un apprezzamento della Sampdoria, ma siamo davvero lontanissimi. Zarate un paio di giorni fa su Twitter ha scritto di aver vinto la causa contro la Lazio, di essere finalmente libero di trovarsi una squadra. Alla Lazio tutto questo non risulta, è in vertenza con Lotito fino a quando questa vertenza non terminerà. Zarate non si muove da Roma, e poi vedremo se si muoverà a parametro zero da giocatore svincolato o se si dovrà passare per una trattativa con Lotito, che qualche anno fa ha rifiutato anche cifre importanti per Zarate. Adesso si mangia le mani, però Zarate anche nella sua esperienza all'Inter ha dimostrato di essere un giocatore che a certi livelli evidentemente ha dei limiti, e non soltanto tecnici, anche caratteriali. Tutti convocati. ...800-24-00-24 per le vostre telefonate in diretta. Buon pomeriggio ad Enzo Bucchioni, direttore di QS. Ciao Enzo. Ciao a tutti, buon pomeriggio anche a voi. Ciao Giovanni, ben ritrovati. Buon ritrovato anche a te. Ci credi a Cassano che può inseguire la nazionale? Ma sì, crediamo, gli abbiamo dato tante volte delle chance, alcune se le giocate bene, altre soprattutto se le bruciate. Questo mi sembra il cosiddetto ultimo treno. Fra un anno ci sono i mondiali in Brasile, lui ci tiene molto, giustamente, come tutti i giocatori. Dipende solo da lui, dal suo umore, dal suo temperamento, che sappiamo volubile e volatile secondo la situazione. Meno cassanate e più estro calcistico, che ne ha tanto, e potremmo ritrovare quel giocatore che a volte abbiamo visto, a volte no. È come quella lucina, dicevo, dei carabinieri una volta, no? Ora sì, ora no, ora sì, ora no, questo è Cassano. Sì. Vediamo cosa farà a Parma, l'ambiente è quello giusto. Sì, c'è chi scrive su Twitter a proposito della sua possibile convocazione in nazionale tra un anno: è soltanto una questione tattica. Se Prandelli andrà con il 4-3-3, i più forti sono Cerci, Balotelli e Insigne, oppure se dovesse scegliere un modulo più simile, ad esempio, a quello della Juventus di quest'anno, allora Cassano potrebbe essere la spalla ideale di Balotelli. Io faccio la valutazione che la motivazione della possibile convocazione per il Mondiale è sicuramente una motivazione che spingerà Cassano a fare un'ottima stagione. Credo però che ci siano poi altre cose che lo tengono fuori dal gruppo azzurro, che lo hanno tenuto fuori nell'ultimo anno, e quindi, lo diceva anche Fascetti prima, difficilmente Cassano da questo punto di vista è recuperabile alla causa azzurra. Sì, sono d'accordo anch'io. Io parlavo strettamente di questioni calcistiche, e se Cassano dovesse fare una stagione strepitosa, poi soprattutto lui ci deve credere, e le motivazioni sue devono essere intatte per tutta la stagione. Quindi se fa una grandissima stagione, buon per lui, buon per tutti. Però le ragioni non sono a ragione Fascetti, squisitamente tecniche, sono anche nell'inserimento del gruppo, sono soprattutto comportamentali. Ora non stiamo qui a ricordare gossip che sono usciti dal raduno della nazionale dell'anno scorso per gli europei. Evidentemente Cassano è un simpatico ragazzo, ma in certe situazioni diventa anche una turbativa per 23 giocatori che vogliono concentrarsi e prepararsi a una manifestazione importante. Io credo che Prandelli l'abbia tagliato, fra virgolette, proprio per questo. Tu questa sera che Cassano ti aspetti? Perché, e lo abbiamo sentito le altre prime volte, le sue prime parole da giocatore della Sampdoria, da giocatore del Milan, un anno fa da giocatore dell'Inter, non sono mai state prime volte banali. Sassolini se ne avrà nelle scarpe Cassano sicuramente. Perché oggi Moratti l'ha salutato sul sito dicendo: è stato un onore vederti indossare la maglia nerazzurra, però io penso che Cassano non abbia preso benissimo il divorzio, probabilmente si aspettava di restare almeno un altro anno all'Inter nel grande giro. Sì, questo assolutamente, ma io di Cassano ho sempre in mente la prima volta del Real Madrid con quel pellicciotto strepitoso. Inguardabile. Inguardabile, quello ce l'ho sempre in mente. Non credo che stasera farà una compassata di quel tipo lì, però mi aspetto dialetticamente un Cassano molto vivace, perché non è stata una stagione qualsiasi. Ricorderete anche lo scontro con l'allenatore Stramaccioni, un po' di fronda che è stata fatta nei suoi confronti dalle argentine nello spogliatoio. Dipenderà da come sarà consigliato. Io fossi il suo agente gli consiglierei di fare di stare basso, un basso profilo, se vuole veramente riproporsi ad alti livelli vuol dirci per l'ennesima volta che Cassano, quello vecchio, non c'è più e c'è un nuovo Cassano, però sarà difficile. Io aspetto invece al contrario molto pirotecnico stasera. A proposito dei grandi talenti e anche di caratteri un po' particolari, io vi faccio sentire una chicca: Pier Silvio Berlusconi su Balotelli. Vi dico, questa non me la chiedete voi, ma vi dico che ho visto delle foto, non mi ricordo nemmeno dove, ma di Balotelli che esce dall'aeroporto, sale in Ferrari e sulla Ferrari ha un Avre Magic, avete preso? Ecco, ho detto, è un grande, cioè è veramente un grande, perché questa è la prova che Balotelli è Balotelli, è un grande campione, esatto. Quindi non, io adoro Balotelli, ma tu ti ricordi che io sono anni che dico Balotelli, è Balotelli. Vero, sono quindi 3 anni. Balotelli è un campione perché ha la Ferrari con l'Arbre Magique. 800 24 00 24, io non so te Enzo Bucchioni, ma a me sembra che il Milan si stia legando un po' troppo anche al lato caratteriale di Balotelli. Pier Silvio Berlusconi ha detto anche da tifoso totale io dico che a Balotelli è concesso tutto. Galliani ha detto che è incedibilissimo, è il centro del progetto del Milan. In fondo Balotelli è un giocatore che non ha mai avuto una grandissima continuità in questa prima fase della sua carriera, ha un agente che non so se è disponibile a tenerlo al Milan per sempre, perché poi non dimentichiamo anche questo, Enzo. È tutto vero quello che dici, sono giocatori però che inquadri molto difficilmente. Se pensi di normalizzare Balotelli, secondo me è una strada in salita, difficile. Impossibile. Come pensare di normalizzare Ibrahimovic, siamo ad altri livelli, altre situazioni, però anche Ibrahimovic ha fatto sempre quello che ha voluto, dentro lo spogliatoio, in campo, se l'è sempre presa con i compagni. Balotelli eccede. Però il suo essere Balotelli, forse anche la qualità che spiega in campo lo fa per questo. Certamente un po' di briglia gli vanno messe, però ho visto che nei mesi che ha passato al Milan un po' è cambiato, faticosamente, però si sta impegnando, anche la scuola di Prandelli gli è servita. Anche qui siamo di fronte a un campionissimo, a un genio calcistico, chiamiamolo così, genio e sregolatezza, e il suo futuro dipende tutto da se stesso. L'Arbre Magic ti dà l'idea di quanto sia kitsch, è che è un po' kitsch, deve un pochino normalizzarsi, deve esprimere soltanto le sue qualità tecniche, e comunque non puoi mettere il Milan tutto sulle spalle di Balotelli, lo caricheresti di una responsabilità che forse non riuscirebbe a gestire. Intanto qualche amico al 349-238-6666 ci chiede se alla fine, cambiando squadre, cambiando orizzonte, la Juventus riuscirà a prendere Ogbonna, perché da ieri sera c'è questo duello di mercato tra Juventus e Napoli che secondo me è semplicemente l'antipasto di quello che accadrà nella prossima stagione, perché mi sembra che il Napoli sia forse l'unica società, l'unica squadra attrezzata in questo momento per fare davvero la concorrenza alla Juventus. Partiamo da Ogbonna, ma poi mi interessa anche capire se dobbiamo prendere davvero Juventus-Napoli come il duello dei prossimi mesi. Questo di sicuro, perché l'hanno espresso i campionati, gli ultimi due campionati hanno espresso questi valori, Juventus e poi a seguire il Napoli l'anno scorso, la stagione passata, con un pizzico di fortuna e di determinazione in più nel maledetto mese di gennaio, parlo per il Napoli naturalmente, poteva fare anche la rincorsa e stare più sul collo della Juventus. Il Napoli ha cambiato allenatore, quindi le motivazioni saranno superiori, come tutte le volte che cambi il manico succede così. È un allenatore importante, vincente, sta modificando la squadra. Se dovesse vendere Cavani con quei soldi lì, comprare 3 o 4 giocatori. Sì, secondo me fa un affare il Napoli se vende Cavani, non perché Cavani ovviamente non sia un giocatore importante, però lo vende nel momento migliore e da questo punto di vista sono sempre buone cose. Può rinforzarsi anche senza Cavani? Ma sì, assolutamente, 60 milioni vuol dire comprare 4 giocatori da 15 milioni l'uno, e con 15 milioni compri dei signori giocatori, uno per reparto o addirittura 2, e se vai a comprare bene rafforzi assolutamente la squadra, tanto più che tenere Cavani non motivato sarebbe un autogol clamoroso, va venduto, ma se non arriva ai 63 io lo vendo anche a 55, perché è all'apice, come dicevi tu, dopo questo straordinario Confederation Cup, dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni, rischi che poi cali come rendimento e cali contemporaneamente anche la sua quotazione. 800 24 00 24, Enzo Bucchioni, se hai un minuto di pazienza ascoltiamo insieme Ermanno dalla provincia di Ravenna. Buon pomeriggio Ermanno. E abbassi la radio per cortesia, prego. Buongiorno. Prego. Però abbassi la radio, altrimenti dobbiamo passare a Giorgio da Prato. Ermanno, Avanti. Bene, abbassata. Volevo fare questa domanda. Dica. Su Cassano. Dica. Io sono un tifoso dell'Inter, sono, l'ho anche ammirato quando ho giocato con l'Inter quest'inverno. Non ho capito bene, cioè, ho letto che è passato il pana praticamente, non ho capito bene se è stato scaricato da Mazzardi oppure se lui pretendeva di giocare tutte le partite, ecco, non ho capito bene il motivo di questo divorzio, ecco, con l'Inter, se me lo potete spiegare, grazie. Io credo, Ermanno, che prima di tutto l'Inter di Mazzarri sarà un Inter che correrà, e quindi Cassano, che pure non ha fatto una brutta stagione, Enzo Bucchioni, fino a che non si è infortunato, sia un giocatore in questo momento tatticamente incompatibile con quello che è il progetto dell'Inter dell'anno prossimo. Io credo che si parta da qui più ancora che dai comportamenti, perché non è andato malissimo Cassano nell'Inter. Sì, però la storia va ricordata. Mazzarri lasciò la Sampdoria, allora si disse, quando aveva un anno di contratto per i contratti che avevano lo spogliatoio con Cassano. Ricorderete, Mazzarri si dimise, è rimasto senza panchina, poi andò al Napoli in ottobre quando fu esonerato Donadoni. Quindi io sarei stato profondamente meravigliato, incredulo addirittura, se Cassano fosse rimasto all'Inter. Per le ragioni che dicevi tu, dal punto di vista atletico, un giocatore che non corre più, va servito, ma anche dal punto di vista comportamentale. Se deve cambiare lo spogliatoio dell'Inter, deve cambiare in toto e deve rispettare le regole di Mazzarri, che è un allenatore molto rigido, giustamente pretende il massimo da tutti i suoi giocatori, soprattutto in allenamento, e Cassano è sempre un destabilizzatore. Giorgio dalla provincia di Prato, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego, a lei, Enzo. Ma io dicevo, vi rifaccio un attimo al discorso che facevate prima, no, dell'ipotetico compagno per i mondiali prossimi di Palotelli, no? Allora, secondo me, se la condizione fisica, come noi fiorentini auspichiamo, sorreggerà, e il compagno di Balotelli non sarà né Cassano né tantomeno Insigne, ma sarà Giuseppe Rossi, penso, perché questo è un giocatore che ha dei valori tecnici eccellenti. È vero che è un anno che è fermo, però con fisico asciutto, un giocatore piccolino, brevilino come lui, e tra l'altro dico, anche proprio a livello di Fiorentina, se dovessimo riuscire a prendere Gomez, pensare a un tridente con Joaquim, Gomez e Giuseppe Rossi, insomma, fino a un anno fa, se me l'avessero chiesto, io avrei detto questo è l'attacco del Manchester United. Noi sogniamo ad occhi aperti, insomma. Sì, speriamo di non svegliarsi. La Fiorentina sta facendo un mercato sicuramente di prima linea, però Guardiola pochi minuti fa, da Arco di Trento, dove il Bayern ha iniziato il suo ritiro, ha detto Gomez in questo momento è ancora un giocatore del Bayern di Monaco. Ripeto quello che ho detto all'inizio, Gomez vuole la Fiorentina vuole Gomez, però anche qui i tempi hanno una certa importanza, e quindi i Della Valle faranno bene a sbrigare in fretta la pratica di Jovetic per evitare che gli occhi su Gomez li metta qualcun altro, Enzo. Sì, su questo non c'è dubbio, però quando hai un accordo con un giocatore sei molto avanti nella trattativa. Gomez si è accordato con la Fiorentina più di un mese fa. Sappiamo già anche i termini di questo accordo: 4 anni di contratto, 4 milioni e mezzo a lui, la fidanzata vuole fortemente venire a Firenze, è motivatissimo. Si tratta di trovare l'accordo sull'ingaggio. Tu mi dici lì la salita, sicuramente, però la Fiorentina ha offerto 15, il Bayern vuole 20, io credo che alla fine un punto di incontro si possa trovare. Il problema vero è la Fiorentina deve vendere Jovetic, perché due campioni di questo tipo non se li può permettere, per il monte ingaggi e per anche un equilibrio dentro lo spogliatoio. Quindi si tratta di aspettare qualche giorno e poi questo accordo andrà sicuramente in porto. Per quanto riguarda Rossi sono assolutamente d'accordo. Sì, è la grande speranza e la grande scommessa che io credo di tutto il calcio italiano. Però da questi infortuni è difficile, anche perché non è stato un infortunio, ma è stato un infortunio con una ricaduta. Quindi le incognite ci sono e non sono da sottovalutare. Sì, sì, assolutamente, io non ne parlavo anche per scaramanzia per lui e per la nazionale, perché un giocatore così sarebbe fondamentale, ma prima rivediamolo in campo, aspettiamolo con serenità, se dovesse tornare quello che è, come tutto il calcio italiano crede e si aspetta, sicuramente la maglia titolare spetta a lui, Prandelli gliel'aveva già data del resto. Certamente, grazie Enzo Bucchioni. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, a presto, ciao. Tutti convocati. C'è chi è ovviamente felice, perché da buon tifoso come si fa a non essere sensibili al fatto che comunque già un campione, nonostante la giovane età, rimanga al Milan. Detto questo, voglio essere anche proprio schietto fino in fondo. È giovane e deve dimostrare ancora tanto, massimo impegno. Mi aspetto il massimo impegno per la prossima stagione da tifoso. Questo era Pier Silvio Berlusconi su El Shaarawy, che resta al Milan, però è circondato da un po' di scetticismo, e anche queste parole di Pier Silvio Berlusconi lo confermano. Secondo me non è l'unico giocatore del Milan che deve ancora dimostrare molto, che deve crescere, però è finito per un mese sul mercato. Giocatori passati dall'Inter: Pirlo, Ibrahimovic, Roberto Carlos, Ronaldo, Cassano, Vieri, mi sembra con pochi risultati, Claudio da Formi al 349-238-6666. Beh, mi sembra che qualcuno di questi giocatori qualcosa all'Inter abbia vinto. E poi Gianni da Verona: tenete bene a mente che il mondiale in Brasile è un mondiale che si giocherà con il caldo, e quindi il fattore fisico sarà dominante. Ha ragione, io credo che Prandelli non porterà mai Cassano, e non soltanto per questioni caratteriali, ne abbiamo parlato con Enzo Bucchioni, ma anche perché l'esperienza di questa Confederation gli ha detto che serviranno 23 atleti oltre che 23 calciatori. Tommaso scrive su Twitter: Cassano però in provincia farà una grande stagione, sarà difficile non riconvocarlo. Credo che sarà un tormentone che ci ritroveremo a partire dalla primavera, insieme al tormentone di Totti, se Totti ripeterà l'ultima stagione. Però io credo che alla fine le scelte di Prandelli saranno diverse. 800240024, Vito dalla provincia di Agrigento, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Per tutti gli ascoltatori e principalmente per voi, devo fare un apprezzamento per dire che una trasmissione ben congegnata come la vostra, che dà l'opportunità di esprimere a tanti ascoltatori il proprio parere. Volevo dire solo questo di Balotelli, che è il campione che apprezzo enormemente, e di essere leggermente, diciamo, di essere un po' meno arrogante, perché poi è un campione di altissimo spessore e le soddisfazioni che dà sono veramente immense, specialmente al pubblico e al, diciamo, a tutti gli italiani, e principalmente per i tifosi della squadra. Vi ringrazio per... Sì, è un giocatore che deve certamente un po' limare alcune asprezze caratteriali. È un giocatore un po' esagerato in alcuni comportamenti, non soltanto fuori dal campo. È un giocatore che in metà stagione al Milan ha fatto collezione di ammonizioni e anche di squalifiche, e lo stesso Prandelli gli ha dovuto ricordare che questo in tornei brevi, come è stata la Confederation Cup e come sarà il Mondiale tra un anno in Brasile, questi sono peccati che si pagano, e si pagano anche caramente. Detto questo, è certamente il talento più importante del calcio italiano, quindi da lì bisogna ripartire. Secondo me, non legandosi mani e piedi a Balotelli, non legando un progetto che può essere quello del Milan o della Nazionale, sapendo che è importante e centrale, ma tenendo sempre comunque bene in mente che è un giocatore che fin qui non ha assicurato continuità. Andiamo sulle strade del tour. Buon pomeriggio, Pier Augusto Staggi. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Pier, buon pomeriggio. Oggi credo tappa che può portarci il 25esimo successo di Cavendish, che ieri abbiamo visto vincere la volata, 24 per lui i successi nelle tappe del tour. Oggi mi sembra un'altra frazione disegnata apposta per i velocisti. Beh sì, ha vinto la tappa di ieri, che forse era la meno adatta a Cavendish, anche se ormai è migliorato molto e tiene anche in salita, ma ieri era veramente una tappa molto nervosa, con anche degli strappi di seconda categoria. Oggi invece la tappa si presta assolutamente agli uomini jet, lui a tutti gli effetti sta pedalando per diventare il velocista più forte di tutti i tempi, i numeri lo dicono chiaramente. Oggi, se riuscirà a portare a casa la 25esima tappa Tour de France, a soli 28 anni può battere il record anche di Eddy Merckx. Ricordiamo che Eddy Merckx è al comando di questa speciale classifica, 35 vittorie per lui, 28 per Bernard Hinault, potrebbe andare a tre passi dal grande bretone e poi conquistare, cercare di portare a Parigi l'ennesima maglia verde e accrescere il bottino di numeri di una carriera semplicemente spaziale. La nostra consolazione è solo quella di sapere un Cavendish che adora profondamente l'Italia, è cresciuto ciclisticamente nella zona di Lucca e per il resto però dobbiamo solo applaudire il velocista dell'Isola di Man, che sta veramente mettendo in pericolo un po' tutti i record del ciclismo storico. Sì, ci consoliamo che gli piace stare in Italia, è cresciuto da noi, poi lì ci fermiamo, perché purtroppo lo avevamo detto alla vigilia, questo sarebbe stato un tour che noi avremmo spiato dal buco della serratura, e queste prime tappe lo stanno confermando. Per chiudere, Pier Augusto, ieri non siamo riusciti a sentirci, e invece avrei voluto parlare con te di questa cronosquadre da record percorsa a 58 quasi chilometri all'ora di media. Ha detto Sandro Donati, che tutti conosciamo per l'impegno contro il doping ed è consulente della WADA, dati preoccupanti che riportano indietro nel tempo, perché è difficile pensare che non ci sia lo zampino del doping. Tu cosa ne pensi? Ma intanto io mi inchino di fronte al sapere di Sandro Donati, che è uno studioso, è un uomo che da tanti anni sta veramente facendo qualcosa di unico, soprattutto in Italia, per la lotta al doping, ed è uno dei massimi esperti mondiali, quindi non ho motivo per mettere in discussione quanto da lui detto. Devo solo dire così, che la mano sul fuoco io stesso non la metto più, perché troppe volte me la sono bruciata. Voglio pensare un positivo, in questo caso pensare bene, non in maniera positiva con la brutta stortura che può avere il termine, pensare positivo e dire che ha sfiorato i 58 km orari, la media è stata di 57.800 per la precisione, la Orica Green Edge, erano 9 corridori, uno più specialista dell'altro, hanno corso una cronosquadre a Nizza, dove il vento praticamente ha soffiato. Sì, tu dici c'erano delle condizioni che hanno facilitato questa prestazione per il team che ha vinto, dico, per quelli che sono arrivati vicini. Ogni altro discorso, non si può garantire nulla visti i precedenti. Il ciclismo che mi preoccupa e mi fa venire brividi alla schiena sono quelli, diciamo, 2001, cronoprologo del Giro d'Italia a Pescara. Il belga Rick Verbrugge pedala tutto solo, quindi cronometro individuale, e ha fatto 58.870 da solo. Sì, un motorino in pratica. Esatto, una squadra che fa 57.100, quindi molto più basso, ma sono 9, tra l'altro una cronometro più breve, in condizioni ambientali piuttosto agevoli. Tu dici può avere anche un'altra spiegazione. Detto questo, è giusto farsi queste domande, Pier Augusto. Anche se io ribadisco, non voglio mettere la mano sul fuoco. Con Sandro Donati la mano sul fuoco non ce la metto. Certo, grazie Pier Augusto Staggi, appuntamento domani. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie Pier Augusto Staggi, l'appuntamento è per domani anche con tutti voi. Io ringrazio Fabio Cantadori in regia, Franco Piantanida, che è stato autore di questa puntata. Noi ci risentiamo domani 14.05, un saluto anche da Giovanni Capuano. Out. No. Non è vero, ma non è vero, ha preso un gesso, Pascal, ma come fai? Tu non mi dai fuori? Dai, com'era? Franti, dai! Si è toccato il coso, il touch the white one! Sì, touch the white one, è bugia, non è. Come cazzo fai? Madonna! Sì, c'è niente.